Fa un po' impressione di questi giorni alzare gli occhi per strada in metropolitana dai titoli dei giornali che annunciano le orribili cose che accadono in Israele: attentati, rappresaglie, rifiuto generalizzato del processo di pace, umiliazioni di chi a quel processo ha creduto e magari ci ha giocato sopra le sue personali chance di sopravvivenza. Alzare gli occhi da questi titoli e fermarli sui giganteschi manifesti che in Israele invitano a trascorrere le prossime vacanze. Perché, dice il doppio slogan, chi va in vacanza in Israele trova sempre la sua vocazione e Israele comunque è una storia nuova per tutti. Sono dei manifesti che inalberano delle immagini serene di bagnanti che giocherellano sott'acqua con degli amichevoli delfini o di escursionisti molto ben equipaggiati in contemplazione di rovine molto pittoresche. E non è possibile fare a meno di confrontare quell'immagine con le altre che ogni giorno ci arrivano da quel paese martoriato. La loro serenità rende ancora più incongruo l'invito a passare le vacanze in una terra che dalla guerra, dall'oppressione e dall'ingiustizia, a onta degli sforzi di molti, non è ancora riuscita a liberarsi. Certo, il turismo è un'industria, è un business, come si dice, e di tutti i business, di tutte le industrie, ostenta dichiaratamente la crudeltà. La povertà e le disgrazie di troppi paesi in cui siamo invitati a recarci per dimenticare i nostri problemi rappresentano spesso una specie di bonus aggiuntivo alla loro bellezza climatica e paesistica, perché significano che i nostri pochi denari laggiù avranno un valore molto maggiore che in patria. A questa dura legge economica siamo abituati a inchinarci senza avvertirne nemmeno l'implicito cinismo. Ma Israele non è soltanto un paese tormentato da una crudele guerra civile con le sue inevitabili conseguenze di iniquità e di repressione. La sua storia, così strettamente intrecciata con i miti ideologici del nostro secolo, gli impedisce di essere un normale paese in crisi, come ce ne sono tanti in quella parte del mondo e naturalmente altrove. Israele, in un certo senso, è il luogo esemplare del fallimento delle buone intenzioni della nostra civiltà, dalle pretese dell'Occidente di trapiantare ovunque la propria cultura a quelle del terzo mondo di contrapporle qualsivoglia sistema di valori propri. È il paese in cui l'Europa e l'America hanno scaricato sulla pelle degli altri la propria cattiva coscienza, contribuendo non poco a creare il pasticcio inestricabile che conosciamo tutti, e in cui coloro che storicamente erano gli oppressi hanno trovato asilo solo a patto di trasformarsi in oppressori. È una terra tragica, in cui si può anche giocare con i delfini, per carità, ma solo a patto di saper chiudere gli occhi di fronte a molte moltissime cose. La pubblicità turistica ha in sé sempre qualcosa di sgradevole, perché in fondo esprime la volontà di vendere ad altri la propria terra, di farsi in un certo senso prosseneti di se stessi, ma quei manifesti che utilizzano come slogan delle espressioni che si riferiscono esplicitamente a quel colossale fallimento ideologico e che ne riprendono le tematiche originarie, che scherzano su concetti come quello di vocazione, sulla speranza di una storia nuova, rappresentano un caso davvero unico di sfrontatezza. Sì, ce n'è l'altro. Un altro caso interessante di sfrontatezza è rappresentato dalla piccola carta geografica su cui, in basso a sinistra, vengono indicate le principali mete turistiche del paese. Gli esperti in questioni geografiche noteranno che essa carta non riproduce i confini di Israele come sono normalmente indicati sugli atlanti, non fa differenza tra territorio metropolitano e territori occupati, rimanda in sostanza ai confini tradizionali della Palestina, Gaza e Cisgiordania comprese. Per sicurezza mi sembra includa anche le alture del Golan, che pure non credo abbiano nulla di turisticamente appetibile. Ora, essersi ostinato ad usare una cartina del genere che non riconosce la realtà della contrapposizione dentro ai vecchi confini palestinesi di un'entità ebraica e di una araba è stato per anni uno dei capi di accusa che si soleva rivolgere ad Arafat e alla sua organizzazione. Oggi la situazione è cambiata. L'OLP ha riconosciuto l'esistenza di Israele, è stato firmato un trattato internazionalmente garantito secondo cui lo status definitivo dei territori è ancora tutto da discutere, ma evidentemente qualcuno ha già trovato la sua soluzione e approfitta della propaganda turistica per renderla nota al mondo. Fate voi naturalmente, io non mi permetterei mai di darvi dei consigli in una materia tanto delicata, ma io in vacanza in Israele proprio non ci andrei.